Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Oggi a Salva Danaio ritorniamo su un vero e proprio mal di denti per i risparmiatori, dei quali però forse in molti ancora non hanno pienamente consapevolezza. Parliamo delle novità fiscali che complessivamente da gennaio hanno modificato la tassazione dei redditi finanziari, inseriti nei provvedimenti d'urgenza che tutti ci ricorderemo per l'eternità, le misure Salva Italia. Gli interventi per la verità erano già iniziati nell'estate del 2011 con il ministro Tremonti, che aveva introdotto un'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli, che aveva però avuto vita breve, solo un semestre. Il 1 gennaio di quest'anno invece è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie, con l'applicazione dell'aliquota unica del 20% a quasi tutti gli investimenti, con l'esclusione dei titoli di Stato che rimangono tassati al 12,5%. Poi, come dicevamo, con il decreto Salva Italia, da quest'anno è arrivata la riscrittura dell'imposta di bollo su conti correnti e libretti di risparmio, e soprattutto è arrivata la mini patrimoniale, vestita, qualcuno dice, camuffata da bollo promozionale proporzionale sui prodotti finanziari. C'è poi anche tutto il campo dei nuovi prelievi sulle attività finanziarie detenute all'estero, che per oggi non saranno oggetto della nostra trasmissione, abbiamo parlato tante volte. Allora, perché ne torniamo a parlare di tutto questo? Perché è in corso una mobilitazione con la quale si sta cercando di richiamare l'attenzione del governo per una rivisitazione, se non cancellazione, abrogazione della norma che prevede questa mini patrimoniale, in particolare perché ne viene contestata la proporzionalità, la mancata proporzionalità, ma anche la mancanza di esenzione, quantomeno per i patrimoni molto bassi. Si sono attivati in molti, per esempio Banca Etica, ma non solo. Oggi con noi Alberto Foà, presidente di A come A SGR, che ha orchestrato un'iniziativa di cui si trovano tutti i dettagli sul sito www.risparmiamocelo.it. Foà, buongiorno e bentornato. Buongiorno. E con noi, naturalmente, anche per ricapitolare un po' tutta la situazione, che è estremamente complessa, un dottore commercialista, un consulente fiscale per banche e società fiduciarie, dottor Fabio Guffanti, che saluto, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Doppiamente bentornato, perché reduce tra l'altro da un viaggio un po' rocambolesco a New York, e quindi ha fatto la sua piacevole conoscenza con Sandy qualche giorno fa, però insomma l'abbiamo con noi. E questo ci fa molto piacere, perché questa mattina ci serve anche la sua consulenza per rifare il punto sulla situazione, appunto, come vi dicevo all'inizio, di questa rimodulazione di tutto il sistema di fiscalità intorno ai prodotti di investimento. E siccome ancora forse in molti non si sono resi conto di quello che potrà succedere a fine anno, quando appunto gli intermediari, anche i sostituti d'imposta, appunto, faranno questi prelievi, sarà ebbene oggi sollevare di nuovo l'attenzione su tutto questo. Per le vostre domande, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se ci volete scrivere, potete farlo al 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ci potete scrivere anche al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, siamo anche su Twitter @salvadanaio24. Rapidamente, la borsa di oggi, che è negativa, ancora una volta una giornata con il segno meno sui mercati finanziari, una settimana davvero difficile in un mercato che ha guardato con grande attenzione alle elezioni statunitensi e poi è rimasto deluso dall'esito elettorale. Insomma, tutti i grandi sponsor di Obama nel mondo, e poi in realtà a quanto pare il mercato tifava di più per Mitt Romney. In ogni caso, adesso c'è questo banco di prova fondamentale per la rieletta amministrazione Obama, quello del fiscal cliff, quindi il precipizio fiscale, appunto, del quale abbiamo parlato tanto negli ultimi giorni. Ci sono prossimamente, appunto, degli appuntamenti a questo congresso americano che è spaccato sulle decisioni da prendere sul versante fiscal cliff, e quindi chiaramente il mercato richiama l'attenzione anche mettendosi in territorio negativo su questo tema. Abbiamo poi noi le nostre questioni domestiche, la Spagna e la Grecia, e oggi allora tutto il segno meno a prevalere sui listini. Francoforte -0,9, il peggior listino, con lo spagnolo che perde oltre un punto, Milano -0,6, Parigi -0,18 e Londra -0,52%. In discesa anche l'euro sul dollaro, sta portandosi a 1,27, lo spread fra BTP e Bund ancora di nuovo piuttosto alto, oltre i 370 punti base, con il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario oltre il 5%. I peggiori titoli di Milano: Mediolanum -5, Autogrill -4, Mediobanca -3, Banco Popolare meno 2,81%, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,76%. Positiva invece Finmeccanica più 3,40%. Sulla stampa stamattina ancora indiscrezioni sul dossier dismissioni del gruppo, si sarebbe riproposta un'offerta per Avio, poi naturalmente c'è Ansaldo Energia, Ansaldo Breda, tutte questioni che dovrebbero forse chiudersi entro la fine dell'anno. Dopo i conti, Telecom più 3,23%, Saipem più 2%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, appunto, come vi anticipavo, ritorniamo a parlare della tassazione sul risparmio. Il 2012 sarà ricordato da molti per la moltiplicazione dei sacrifici che le famiglie italiane sono state chiamate a fare per affrontare la crisi italiana ed internazionale. E sarà probabilmente ricordato anche come l'anno in cui, mai come in passato, il mondo del risparmio è stato colpito da una riorganizzazione molto significativa della fiscalità e della tassazione. Tenendo da parte le novità sulla nuova tassazione applicata alle rendite finanziarie, dal 1 gennaio 2012 l'imposta di bollo sui rapporti bancari e sugli investimenti è applicata con modalità differenti. Da una parte c'è l'imposta fissa sugli estratti conto, conti correnti bancari e postali, e sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali. Dall'altra c'è l'imposta proporzionale per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali. Su questa si sta concentrando, con un certo disappunto, l'attenzione di intermediari e società di gestione del risparmio, che hanno notato un aspetto di non trascurabile importanza: l'assenza della proporzionalità, richiamata anche dalla legge. L'introduzione del bollo proporzionale, che vale quest'anno lo 0,10% sul valore dei prodotti finanziari e sarà dello 0,15% dal 2013, prevede un minimo annuo di 34,20 euro e un tetto massimo, per il solo 2012, di 1.200 euro. Il faro è puntato sul minimo, che non tiene in considerazione patrimoni di piccola consistenza. Tanto per fare un esempio, se un risparmiatore detiene 100 euro in un conto deposito, conto titoli o in un fondo di investimento, dovrà comunque pagare l'imposta minima di 34,20 euro, che corrisponde a un'aliquota annua del 34,2%. Un invito all'abrogazione della norma arriva dal mondo delle società di gestione del risparmio, perché calcolano che colpirà in maniera indiscriminata oltre 4 milioni di risparmiatori. Ma al momento da Palazzo Chigi, sulla questione, nessuna risposta. 800240024, numero verde per le vostre domande, i vostri interventi in diretta. In alternativa scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Alberto Foà, voi vi siete mobilitati da qualche settimana. Come mai il dibattito su questa questione si sta intensificando proprio adesso, visto che comunque il provvedimento contenuto nel pacchetto Salva Italia è ormai cosa nota da un po' di più? Come mai questa accelerazione? Beh, ci avviciniamo al momento in cui l'imposta di bollo dovrà essere pagata. Imposta di bollo che ha tre aspetti importanti. Il primo, che come si diceva nel servizio, è un'imposta regressiva, cioè va a colpire percentualmente in maniera più rilevante o molto più rilevante i piccoli e piccolissimi patrimoni. Il secondo aspetto è che è distorsiva della concorrenza, e cioè viene applicata un'aliquota di un'imposta di 34 euro fissi nel caso di un conto corrente bancario postale o di una polizza vita rivalutabile, e tra l'altro con l'esenzione sotto i 5.000 euro. Per tutti i prodotti invece di investimento, e quindi mi riferisco a fondo investimento, SICAV, ETF, depositi amministrati, gestioni patrimoniali, l'imposta è dell'1 per 1000 e poi diventerà l'1,5 per 1000 nel 2013, con un minimo di 34,20 euro. E quindi molti piccoli o anche medi risparmiatori saranno spinti in qualche maniera a disinvestire da investimenti in titoli azionari e in titoli obbligazionari, per andare a finanziare, per andare a fare un regalo, per andare a finanziare gratuitamente le banche, le poste e le assicurazioni, che non mi pare abbiano molto meritato negli ultimi anni. Hanno però una condizione di scarsità di liquidità, che è la condizione nella quale navigano da un po' di tempo. Probabilmente adesso, ma lei addirittura ipotizza che il governo abbia voluto fare una misura che indirettamente le favorisca in questo modo, proprio per fare questo travaso di denaro nei bilanci? Voglio semplicemente ricordare che il 16 maggio l'autorità garante della concorrenza e dei mercati ha scritto al governo notando come ci fosse una palese disparità di trattamento, ha scritto al Presidente del Consiglio e ha scritto al Presidente delle Camere. Non c'è stata risposta, mi stupisce che l'autorità garante della concorrenza e dei mercati non abbia dato seguito, però è un'imposta che, così come è strutturata, è palesemente distorsiva e stupisce tutto sommato da parte di questo governo, che è presieduto dal professor Monti, che è stato per tanti anni commissario alla concorrenza, che questa cosa non sia stata rilevata. Voi avete manifestato il vostro disappunto, lo dicevamo anche nella nostra scheda, l'avete messo nero su bianco con questa iniziativa che presentate sul sito www.risparmiamocelo.it. Invitate proprio ad una adesione, ad una raccolta di adesioni che arrivi anche ad una richiesta di abrogazione radicale della norma, o comunque anche ad una modifica. Che cosa siete disposti a trattare? La principale modifica che noi chiediamo è che quantomeno venga messa la soglia di esenzione sotto i 5.000 euro, non solo per conti correnti, conti postali, assicurazioni, ma anche per tutti gli altri prodotti di investimento, perché non è affatto detto che un patrimonio piccolo debba essere solamente depositato presso una banca o presso le poste. Anche un patrimonio piccolo, mi riferisco per esempio ai piani di accumulo, ricordiamo che nei fondi investimenti oltre 1,5 milioni di risparmiatori hanno cominciato il loro investimento nei fondi tramite un piano di accumulo, almeno queste persone siano incentivate e tutelate rispetto al risparmio. Ricordiamo anche che protezione del risparmio e la tutela del risparmio è richiamata anche dalla Costituzione. Quante adesioni avete raccolto, FOA, a un conteggio recente? Abbiamo cominciato da pochi giorni e siamo ben oltre le 2000 adesioni, ogni ora abbiamo 100 adesioni e quindi la cosa si sta diffondendo in maniera anche virale, perché oltre al sito c'è anche una pagina Facebook di Risparmiamocelo, siamo stati ripresi anche dalla stampa e da molti giornali, e quindi noi chiediamo che finalmente la gente si faccia viva, capisca che questa è può sembrare, diciamo, una cosa particolare o settoriale o una piccolezza, ma invece è qualcosa che influisce profondamente e influirà nei prossimi mesi e nei prossimi anni molto profondamente nella maniera in cui gli italiani risparmiano e destinano i loro soldi. Anche perché poi magari uno fa anche la scelta che vuole, ma la sensazione e il timore è che effettivamente magari molti piccoli risparmiatori da queste informazioni possano non essere raggiunte se non hanno anche un adeguato grado di consulenza. Quindi magari c'è chi può aver sottoscritto un prodotto di investimento proprio perché è di piccole tasche, attraverso canali magari molto semplici, quindi non ha il consulente che lo chiama e gli dice: guarda, qua la cosa sta cambiando, magari fai una scelta diversa, spostalo da un'altra parte se ti vuoi tutelare. Per cui almeno cerchiamo oggi anche di farlo noi in questa maniera. Fabio Guffanti, non mi sono dimenticata di lei, naturalmente abbiamo sentito chi è direttamente toccato dal problema, perché evidentemente veicolando anche il risparmio di molte persone capisce quale può essere l'impatto di una norma di questo tipo. Il fiscalista che cosa dice su questo? Lei ci ha aiutato molte volte a capire cosa cambierà per esempio per chi ha delle attività finanziarie all'estero, l'ho coinvolta spesso su questi argomenti, anche per chi ce l'ha in Italia comunque le cose non sono semplici in questo momento. No, assolutamente. Quello che sconcerta, e sono d'accordo col dottor Foà, è che la norma fiscale non dovrebbe creare discriminazioni in materia di investimenti finanziari, cioè dovrebbe essere assolutamente neutra, come peraltro avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti esteri, comunitari compresi, adesso non solo ambito Stati Uniti, che ho avuto modo di vedere recentemente, ma anche per esempio in Germania, in Gran Bretagna e in Francia sono degli ordinamenti che non pongono discriminazioni all'investitore, nel senso di dire compra questo titolo e sei tassato con una certa aliquota, comprane un altro e sei tassato con un'aliquota differente. Quindi questo non dovrebbe essere. E poi l'altra cosa che sconcerta in questo governo è un disinteresse più assoluto nei confronti dello statuto del contribuente, che è una norma che dovrebbe sempre essere tenuta a mente prima di legiferare, e invece si sono anche visti degli esempi recenti. Il principio della irretroattività della norma tributaria è praticamente sempre dimenticato, e soprattutto nell'ambito delle ultime norme non l'hanno neanche preso in considerazione. C'è sempre da ricordare che naturalmente da un paio d'anni a questa parte i governi legiferano in condizioni di emergenza per fronteggiare anche la questione della speculazione finanziaria che si è abbattuta su di noi, però effettivamente qualche volta poi si rifà comunque marcia indietro, per cui in ogni caso si vede che anche all'inizio forse qualche considerazione più ragionata si poteva fare. Detto questo, adesso a parte tutti quanti i commenti, torniamo a ragionare su ciò che si ha e su quello che succederà appunto a fine anno, quando arriveranno i rendiconti appunto dei prodotti di investimento, e quindi magari si troveranno molti sottoscrittori di prodotti di investimento questa sorpresa anche inconsapevolmente. Facciamo qualche esempio. Guffanti, torno ancora a lei tanto per capire appunto ciò di cui stiamo parlando. Io sono un risparmiatore che ha solamente un conto corrente, ho deciso, perché mi sono spaventato della crisi, di tenere tutti i soldi fermi sul conto corrente, non conto di deposito, conto corrente normale, quindi quello dove accredito lo stipendio, dove mi vengono addebitate tutte quante le bollette, tutti i miei soldi ce li ho lì, ho 7.000 euro, le metto lì una cifra a caso. Cosa succede il 31 dicembre? Semplicemente che visto che il mio conto corrente eccede, la norma parla di giacenza media annua, comunque supponiamo che la giacenza media annua dei 5.000 euro sia superata, ecco. Allora in questo caso il nostro contribuente si ritrova con un'imposta fissa di 34.20 euro, punto. E questo. Quindi, se invece avesse avuto FOA, torno a lei perché così la faccio arrabbiare di nuovo, sul conto corrente 2.000 euro, gli altri 5.000 euro sono in un fondo di investimento magari sottoscritto con la sua azienda. La tassazione qui come viene applicata? In quel caso, sul conto corrente, l'imposta da applicare sarebbe zero, in quanto siamo sotto i 5.000 euro. Mentre invece per lo sfortunato sottoscrittore di fondo di investimento che ha 5.000 euro si applicherebbe l'imposta minima di 34,20 euro, che equivale quasi all'1%, quindi una palese ingiustizia. Che sarebbe ancora più forte se questo fondo di investimento e la giacenza in questo fondo se fosse di 1.000 euro, e quindi il valore dell'imposta proporzionalmente sarebbe sempre di 34 euro, e quindi però in proporzione staremmo a 3,42%. Per arrivare poi all'estremo di cui parlava lei prima, se uno avesse 100 euro, parleremmo di 34, sempre di 34,20 euro, quindi di un'aliquota del 34%, e quindi cominciamo a parlare più di una confisca che di un'imposta. Ecco, qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma chi è che ha in un fondo di investimento 100 euro? Potrebbe anche essere paradossalmente che qualcuno magari ha iniziato un piano di versamenti proprio di recente nella totale ignoranza dell'esistenza di questa norma che tassava in questa maniera. Certo, potrebbe essere certamente come si può trovare nei quaderni di ricerca di Assogestioni, pubblicati anche sul sito di Assogestioni, il 70% dei 6 milioni di sottoscrittori di fondi di investimento italiani ha meno di 22.800 euro. Quindi per tutte queste persone l'imposta sarà regressiva, perché i 22.800 euro sono la soglia al di sotto dei quali non si applica più l'1,5 per mille, ma si applica i 34 euro. Addirittura 1,5 milioni di sottoscrittori di fondi su 6 milioni hanno iniziato il loro investimento nei fondi di investimento, scusate la ripetizione, con un piano di accumulo. Se quindi facciamo l'esempio di un impiegato, di un pensionato, di un giovane che invece di depositare i soldi in banca sceglie di fare un piano di accumulo da 50 euro al mese, ammettendo che abbia iniziato a gennaio, si troverà a fine anno con 600 euro. Questi 600 euro verranno tassati con 34,20 euro, e quindi stiamo parlando del 6%. Se poi invece il piano di accumulo fosse un piano di accumulo anche di 100 euro, ma iniziato, poniamo, in settembre o in ottobre, a fine anno parleremmo di 300 euro e parleremmo quindi di un'imposta del 10%. Voglio solo ricordare che l'Italia... Sì, perché devo andare in pausa. Sarò velocissimo. Voglio solo ricordare che l'Italia è il paese dove ogni anno si giocano 80 miliardi di euro in gioco d'azzardo legale. Ogni anno... Però ogni italiano, non si trova il modo di reperire risorse italiane, da quel settore. Neonati compresi, gioca 1.400 euro all'anno. Sarebbe forse un bene da parte del governo, oltre che impedire le slot machine a 200 metri dagli ospedali, invece favorire l'investimento di giovani e persone che possono risparmiare poco verso forme di investimento senz'altro più proficue delle slot machine o del gratta e vinci. Ci fermiamo. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, da sì, mi ero un po' distratta perché mi stavano comunicando i miei ragazzi in regia delle cose relativamente agli ascoltatori in diretta, perché Domenico, che avevo preannunciato, ci è caduto, ma adesso lo recuperiamo, ce l'abbiamo. Domenico da Brescia, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda semplice. Sì. Volevo sapere, io ho sottoscritto un contratto di conto di deposito in ottobre, dove si diceva appunto che l'imposta di bollo era a carico dell'istituto. Adesso quest'anno me la reclamano. Ah, hanno cambiato idea e comunque evidentemente non avevano appunto... Beh, però lo sapeva, l'avrebbero dovuto sapere prima, dottor Guffanti, della esistenza appunto dell'arrivo dell'imposta della mini patrimoniale. Quindi, però loro evidentemente avrebbero voluto forse farsi carico dell'imposta di bollo normale, la 34,20, no? Fuà, lei non è... Guffanti, che dice? Ma molti intermediari hanno agito in questo modo, cioè... È una politica prettamente commerciale che nulla ha a che vedere con le misure straordinarie del governo per la crisi. E quindi adesso però lì c'è una questione contrattuale effettivamente, che cosa... bisogna vedere se era solamente nel depliantino pubblicitario o se era nel contratto. In ogni caso il decreto attuativo del Salva Italia è uscito in maggio, quindi gli intermediari hanno avuto piena... coscienza dei 34,20 euro minimi solamente a maggio. Evidentemente, siccome l'imposta di bollo prima era molto anche sui conti deposito era molto più bassa, chiaramente un conto è pagare al contribuente un'imposta di bollo da 1,80 euro e un altro conto è pagargli quella da 34,20 euro. Infatti, quindi evidentemente si facevano carico dell'altra. Allora Domenico, magari se ci vuole scrivere a salvadanaio@radio24 potremmo anche avventurarci nel chiedere conto di questo comportamento direttamente alla banca presso la quale ha sottoscritto questa offerta commerciale. D'altronde sono molte le banche che ne hanno proposti molti, anche rendimenti molto alti per i conti di deposito. Lì sempre la ragione di questo era naturalmente fare cassa il più possibile, perché le banche si sono trovate a secco di liquidità e quindi hanno fatto delle proposte anche per strappare evidentemente clienti ad altri istituti di credito, anche molto delle proposte appunto molto aggressive. FOA. No, sì, dico, tra l'altro teniamo conto che le banche hanno beneficiato nel novembre l'anno scorso della LTRO, la Long Term Refinancing Operation. Sì, le operazioni quindi straordinarie della hanno banca avuto centrale dalla europea. Banca centrale alcune centinaia di miliardi a tassi agevolati. Non credo che le banche abbiano bisogno dei soldi dei piccoli e piccolissimi risparmiatori. Lo so che lei è particolarmente accanito, sa bene che quel denaro è stato utilizzato per comprare titoli di Stato, abbiamo dovuto non tutto, ridimensionare, non tutto, lo so, però. Non tutto, molto di quel denaro, siccome le banche avevano paura dell'EBA che avrebbe valutato le eventuali patrimoniali, le eventuali perde su titoli di Stato in capo alle banche, molto di quel denaro invece che essere rifluito verso l'economia è depositato allo 0,25 presso la banca centrale stessa. Allora andiamo avanti, andiamo a Luciana da Milano. No, tra l'altro Luciana, adesso la faccio intervenire. Guffanti, allora, visto lei, ha sentito l'iniziativa Risparmiamocelo, iniziativa che è perseguita anche da altri soggetti, banca etica, ho citato prima che sta lo stesso facendo una raccolta appunto di firme, di adesioni, lo stesso per richiamare il governo sulla eventualità di poter modificare o abrogare addirittura questa norma, appunto, che prevede questa imposta proporzionale per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, poi si chiama così in maniera molto complessa, ma in realtà è questo prelievo dello 0,10% a fine anno sui prodotti di investimento. Poi magari rifacciamo anche la lista della spesa per ricordare quali. C'è margine per cambiarla questa norma? Il governo in che maniera, con quale technicality potrebbe intervenire? Ma margine ci sarebbe sicuramente in due modi: o con un'altra ennesima decretazione d'urgenza, quindi con l'emanazione di un decreto legge da qui a fine anno, e questo potrebbe essere un modo. Un decreto che vada ad abrogare quanto contenuto nel Salva Italia. Che va a modificare, cioè come Salva Italia ha modificato la precedente normativa Tremonti, non c'è il 2 senza il 3, potrebbero con un terzo intervento andare a modificare Salva Italia. Altrimenti, ammesso e non concesso che l'approvazione avvenga entro la fine dell'anno, potrebbero comunque intervenire in sede di approvazione della vecchia legge finanziaria, oggi chiamasi legge di stabilità, però ripeto, a condizione che venga approvata da entrambi i rami del Parlamento entro fine anno, perché sennò la legge di stabilità è un disegno di legge, non è un decreto legge, quindi non entra immediatamente in vigore. Che cosa potrebbero fare? Ma semplicemente dicevo prima che la norma tributaria non deve porre discriminazioni. Quindi, per esempio, se io faccio una esenzione per le soglie basse di contribuenti, come è giusto che sia, perché io sono perfettamente d'accordo che ci sia una esenzione per le fasce basse, ma a questo punto non devo andare a discriminare, cioè dire certi prodotti finanziari dentro, certi altri fuori. Deve essere una esenzione per tutti. Poi, che mi va bene i 5.000 euro, uno può discutere se 5.000, 3.000, 7.000, quello è da vedere, ma il 5.000 può comunque andare bene. A quel punto poi scatta una aliquota percentuale e anche lì forse l'1 per 1.000 potrebbe andare bene. Direi che forse più che altro la grossa disparità di trattamento ce l'abbiamo nella limitazione degli strumenti finanziari che godono dell'esenzione. Stavo intanto, mentre lei ci spiegava tutto questo, stavo riportando la testa sul racconto dell'ascoltatore precedente, perché se non ricordo male, però, la prima formulazione del decreto Salva Italia aveva escluso i conti di deposito dall'applicazione dell'imposta proporzionale. Forse per questo che gli istituti di credito hanno continuato a fare le loro offerte, dopodiché poi c'è stata appunto la novità che ha previsto anche questi prodotti come appunto prodotti sui quali applicare la mini patrimoniale, e quindi evidentemente c'è incappato proprio in questo periodo, in questo limbo, l'ascoltatore appunto che abbiamo sentito prima, per cui l'istituto di credito evidentemente non avrà potuto fare a meno di applicarla e quindi scaricarla evidentemente sul sottoscrittore. Allora, chi sentiamo adesso? Luciana da Milano. Luciana, buongiorno. Luciana. Buongiorno. Senta, io volevo semplicemente far presente la mia situazione riguardo al bollo, all'imposta di bollo. Allora, io ho tre polizze vita da 5.000 l'uno, tre di una diversa dall'altra, poi ho un libretto di risparmio e il conto corrente. In tutto arriverò a 30.000 euro circa. Ecco, io su queste cose, sono cinque cose, io su ognuna di queste, dalle lettere che ho ricevuto, dovrei pagare 34,20, cioè 160, più di 160 euro, esattamente come uno che ha 160.000. Esatto, e lei è proprio il caso emblematico che fa sollevare sulla sedia Foà, sì. Questo è un altro caso di discriminazione. Aspetti, Luciana, sì. Una persona che abbia tre polizze vita, due conti correnti e un conto postale, tutti sopra i 5.000 euro, e che ha, poniamo in tutto, 30.000 euro, 40.000 euro, 50.000 euro, paga 34,20 per ognuno di questi strumenti finanziari. Se uno invece ha 50.000 euro tutti concentrati presso lo stesso conto corrente o presso la stessa polizza vita, paga solo 34,20 euro. Quindi questa è un'altra cosa che spinge, che provoca le distorsioni di mercato. Cioè, Fuanno, mi viene da ridere, voglia predicare la diversificazione come lei fa da tanti tavoli. Sì, è una norma che va contro ogni diciamo principio basilare della finanza retail al dettaglio. Luciana aveva terminato? Sì. Non si può fare niente perché tanto parte dal primo gennaio, quindi anche se non è detto, non è detto, se qualcuno cogliesse tutte le sollevazioni che stanno arrivando, Luciana, confidiamo in qualche... Risparmiamocelo. Ecco, risparmiamocelo. Vada sul sito anche lei, Luciana, vada a mettere il suo click, non c'è, non è assolutamente niente di impegnativo, è solamente una manifestazione appunto di disappunto, come l'ho chiamato io, per non dire di altro. Luciana, quindi vediamo che cosa succederà da qui alla fine dell'anno. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Abbiamo Marco, Lino, eccoci qua, ho due ospiti questa mattina veramente indisciplinati in studio, non è vero, sto scherzando, però insomma il tema ci piace, ci appassiona molto perché parliamo della tassazione del risparmio. Già gli italiani, come sapete, sono dei grandi risparmiatori e a costo di fare dei grandissimi sacrifici cercano tutti i mesi di mettere da parte qualcosa, in molti non ce la fanno più perché naturalmente se parliamo dei nuclei familiari dove si sono persi dei posti di lavoro, altro che fare i risparmiatori, c'è qua da arrivare alla terza e alla quarta settimana del mese, però a patto, a costo di fare grandi sacrifici, c'è chi qualcosina da parte ogni mese lo mette via per fronteggiare magari in futuro emergenze più grosse, e adesso invece questo risparmio, soprattutto quello piccolo, viene tassato in maniera proporzionalmente non equa, almeno secondo quanto stabilisce la misura Salva Italia, che ha introdotto la cosiddetta mini patrimoniale 0,10% sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. Fabio Guffanti, rifacciamo un attimino la lista della spesa su quali prodotti di investimento appunto vengono tassati con questa modalità. Lo sapremo il 31 dicembre, tra l'altro poi c'è anche la possibilità magari di utilizzare qualche scappatoia, che non è molto carino da raccontare e suggerire ai nostri ascoltatori, però non è detto che qualcuno sia stato tentato già dal fare tutto questo. Poi ne parliamo. Guffanti. Allora, le imposte di bollo applicabili sono due. Allora, uno, l'abbiamo detto, è quella sui rapporti di conto corrente e sui libretti di risparmio, sia presso le banche che sia presso Poste italiane. Qui la tassazione è 34,20 euro in misura d'anno, per cui se il rapporto è più breve si paga in proporzione al numero dei mesi, 34,20 se il proprietario è persona fisica, o 100 euro se è un soggetto diverso dalla persona fisica. Per i rapporti conto corrente, per i libretti di risparmio postale, c'è, come dicevo prima, una esenzione qualora il valore medio di giacenza nell'anno non sia superiore ai 5.000 euro. Quindi questa è la prima norma, fra l'altro contenuta nell'articolo 2 del decreto del 24 maggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poi c'è l'altra norma, che è quella che si applica ai prodotti finanziari, che è la famosa norma che tassa con un'imposta proporzionale dell'1 per 1000 per l'anno 2012 e dell'1,5 per 1000 per l'anno 2013, che è quella che appunto abbraccia tutti i prodotti finanziari, compresi i depositi, famoso ascoltatore di prima che ci cade dentro con i suoi certificati di deposito, sia bancari che postali, tant'è vero che la norma adesso dice anche rappresentati da certificati, contrariamente alla norma precedente. E in questo caso la norma dice: c'è un importo minimo che è come quello per gli estratti conto bancari, che è 34,20. Solo per il 2012 c'è un importo massimo nella misura di 1.200 euro, e in questo caso la esenzione è per i buoni postali fruttiferi, sempre leggendo, sempre nel medesimo importo degli euro 5.000. Benissimo. Allora, rapidamente, perché ci mancano 3 minuti di tempo, ancora un paio di domande da parte di alcuni ascoltatori. Fernanda da Monza, rapidissima, buongiorno, benvenuta. Grazie Deborah, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. E io avrei bisogno di un'informazione. Praticamente io in banca ho due conti correnti, uno intestato a mio figlio e uno a me stessa. Quindi la cifra è un po' altina, perché io avevo un certificato di deposito che poi l'ho liquidato e ho voluto tenere il tutto sul conto corrente. Però a questo punto ci stavo pensando, volevo andare lì in credito in banca e chiedere se posso fare un libretto nominativo. Allora, ma a parte che in ogni caso Fernanda, anche se mantiene questo denaro sul conto corrente, non le cambia molto perché non sono prodotti di investimento, per cui paga questi 34 e rotti FOA e quindi non deve spaventarsi, diciamo, dall'arrivo della proporzionale, non verrà colpito. Se i due conti correnti della signora e del figlio sono anche per importi rotondi, la signora pagherà 34,20 euro, così come pagherà 34,20 euro il figlio. Quindi qui non è emerge, il fatto di scegliere un libretto nominativo che la salvaguarda. Un'altra delle ingiustizie, perché se invece la signora, diciamo, per importo rotondo si intende, che ne so, 100.000 euro, se la signora invece che avere avuto dei conti correnti avesse avuto dei fondi investimento o dei titoli, avrebbe pagato 340 euro. C'è chi ci chiede, non apro affatto questa parentesi perché lì c'è tutta una fiscalità di altro tipo, i fondi pensione sono assolutamente 150 euro, anzi mi sono persa, sui fondi pensione non apro neanche la parentesi, i fondi pensione sono adeguati ai conti correnti. Allora, chi prendo adesso in un minuto di tempo? Nessuno. Marco da Roma voleva dirci: molte persone a causa di questi bolli hanno cambiato gestori cercando banche che non fanno pagare i bolli, cioè certo, che se ne fanno carico, ma Spostando, diciamo, gli importi più rotondi o anche quelli sotto i 5.000 euro da un fondo investimento a un conto corrente, si ottiene esattamente il prodotto di quello che questa iniqua tassazione ha prodotto, cioè quello di svuotare i prodotti di investimento per rimpinguare le casse delle banche e della Posta. 5 secondi. Andrea su Facebook ci scrive: presso un primario istituto di gestione del risparmio ha 6 tipi di fondo, paga 34,20 per ogni fondo? No, perché fa capo al sottoscrittore. Paga l'1,5 per 1.000 su paga tutto il patrimonio complessivo. Sul patrimonio complessivo. Benissimo. Se il patrimonio complessivo è inferiore a 22.800 euro, paga 34,20 euro, e se no pagherà l'1,5 per 1.000. Benissimo, benissimo, mica tanto. www.risparmiamocelo.it se volete seguire la bella iniziativa, speriamo che porti qualche risultato, di Alberto Foà e A come A SGR. Grazie a Foà, a Fabio Guffanti per essere stati con noi. Noi ci risentiamo lunedì e martedì, ci sarà con voi Valeria De Rosa. A tutti buon fine settimana. We'll be right back.